Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, bentrovati a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, anche se lo spread, il differenziale di rendimento fra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi, ci sta abituando a livelli meno vertiginosi, e la borsa è andata sicuramente meglio nell'inizio di questo 2012 di quanto non facesse nell'anno passato. Non possiamo certo pensare che i risparmiatori e le famiglie italiane vedano la fine del tunnel della crisi economica. Avete sentito anche nel nostro giornale radio, appunto, le buste paga di marzo saranno, ahimè, più leggere. Gli italiani restano preoccupati, insicuri, e non certo per una paura astratta. Il rapporto con il risparmio negli ultimi anni è cambiato radicalmente, anche in una realtà come quella italiana, che è sempre stata identificata con una tradizione di risparmio molto solida. Sono sempre di più infatti le famiglie che devono intaccare il gruzzolo accumulato negli anni passati per poter arrivare a fine mese con le uscite che superano le entrate. Fra gli strumenti per la gestione del risparmio si continuano a prediligere quelli con meno rischi, pensiamo ad esempio ai conti di deposito, che però, come abbiamo visto anche pochi giorni fa proprio qui a Salva Danaio, anche essi sono stati colpiti dalla medesima tassazione degli altri strumenti di investimento più remunerativi. Per chi ancora può contare su un discreto patrimonio, su una capacità di risparmiare, allora come può scegliere di organizzare al meglio questo patrimonio, di gestirlo al meglio anche nell'ottica di proteggerlo al meglio? In quali casi può essere la scelta giusta optare per un piccolo rischio e cogliere un'opportunità? La risposta a questa domanda è chiaramente molto difficile, le liste dei pro e dei contro sempre più complicate da compilare. Le emozioni e la paura giocano un ruolo molto forte, non sempre si rivelano buone consigliere. Allora noi proprio di questo parliamo questa mattina a Salva Danaio, perché oggi tra l'altro è in edicola con il Sole 24 Ore il rapporto risparmio e investimenti, che ha esplorato le tendenze e le strategie degli italiani messi alla prova dei mercati. Vittorio Carlini, il Sole 24 Ore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Ha curato una bella fetta di questo rapporto, fra cui proprio il pezzo intitolato "Prudenza sì, ma resiste ancora la voglia di rischio". E poi, per tutto ciò che attiene invece ai comportamenti dei risparmiatori, questa mattina abbiamo interpellato uno dei più autorevoli conoscitori della materia finanza comportamentale, il professor Paolo Legrenzi, ordinario di psicologia cognitiva all'Università di Venezia. Professor Legrenzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per la sua disponibilità. Anche il professor Legrenzi ha corredato appunto il rapporto di questa mattina con uno studio molto attento e interessante sul tema della paura legata al risparmio. Professor Legrenzi, prima di guardare alla giornata di borsa e ai temi di oggi, le voglio chiedere quali nuove materie di studio ha avuto modo di analizzare alla luce della crisi recente. Il tema più interessante alla luce della crisi recente che stiamo studiando a Venezia, su cui facciamo anche esperimenti, il tema della diversificazione. La diversificazione in tempi di grande incertezza, ci sono dei periodi in cui per esempio è evidente che i mercati azionari vanno bene, prendiamo il ventennio 1980-2000, con periodi di tempo non troppo lunghi, bastava un triennio, i mercati azionari battevano tutto il resto. Ora da 12 anni non è più così, è molto importante diversificare. Diversificare vuol dire accettare che il futuro non ci è noto, cioè non sapremo cos'è la scelta migliore da qua a un anno, a tre anni, e quindi distribuire il nostro risparmio su diverse fette della torta che non sono correlate, in maniera che se una va male verrà compensata da quella che va bene. Questa è un'operazione molto controintuitiva. Poi c'è un'altra considerazione da fare, ma magari la faccio dopo, sulla diversificazione, che emerge da una lettura attenta, come ho fatto questa mattina venendo da Roma in treno a Venezia, del supplemento di oggi del Sole. Benissimo, allora ci racconterà come hanno diversificato i risparmiatori italiani, se lo hanno fatto bene, se lo hanno fatto male e se hanno appreso appunto le lezioni della diversificazione, perché per la verità, anche se questa crisi, come il professor Legrenzi ci diceva, ci ha portato degli elementi nuovi, non è in realtà un suggerimento nuovo che invece i professionisti del risparmio danno ai propri clienti e alle famiglie che risparmiano. Ne parleremo tra poco. Se volete potete intervenire anche in diretta diretta all'800 24 0024. Raccontateci quanto vi fate condizionare dalle emozioni nelle vostre scelte economiche di risparmio, cosa vi guida nella scelta dei prodotti di risparmio. So benissimo che molti di voi ci risponderanno: beh, chiaramente la possibilità che ho di risparmiare, ma se manca il lavoro in una famiglia, magari anche la quota appunto di risparmio si riduce. Quindi come vi siete organizzati in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo ancora? Intanto vi racconto quello che succede oggi in borsa. C'è un calo generalizzato che è particolarmente forte per Milano, dove chiaramente quando la situazione negativa in tutta Europa, Milano amplifica sempre un po' le tendenze a causa dell'esposizione ovviamente del nostro listino sul settore bancario. Infatti sono proprio i titoli bancari di nuovo a manifestare i ribassi più pesanti. Milano perde l'1,78%, Unicredit peggior titolo -3,51%, UbiBanca -3,49%, Popolare dell'Emilia Romagna -3,41%, Azimut -3,31%, Atlantia -3%, Salvatore Ferragamo -3%, quindi non solo le banche a scendere, Mediobanca -2,90%, Slottomatica miglior titolo +0,6%, Ansaldo +0,14%. Una notizia vi voglio dare. Avremo modo di approfondirla anche nel corso della giornata e magari anche nel corso della nostra trasmissione. Ho questa ambizione di farlo stamattina, vediamo se riusciamo. Arriverà sul mercato dei titoli di Stato italiani il 19 marzo il nuovo BTP Italia, che è un titolo di Stato a 4 anni e rivolto specificatamente al pubblico retail, quindi al pubblico indistinto, al piccolo risparmiatore, con taglio minimo da 1000 euro e una cedola indicizzata all'inflazione italiana. La presentazione di questo nuovo prodotto di investimento avviene proprio in queste ore a Roma, al Ministero del Tesoro, dal Vice Ministro all'Economia Vittorio Grilli e dal Direttore Generale del Debito Pubblico Maria Cannata. Il titolo potrà essere sottoscritto appunto dal 19 marzo al 22 marzo sia direttamente sul MOT, che è il segmento online appunto dei titoli di Stato italiano di Borsa Italiana, che in banca, ma è un titolo la cui appunto distribuzione ha l'obiettivo di abbattere proprio le commissioni di intermediazione. Se riusciremo a tirarlo fuori dalla conferenza stampa, sentiremo più tardi Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana, che forse addirittura siamo riusciti già ad avere in diretta. Adesso c'è Marco Lombardo che lo sta cercando, il mio assistente. Facciamo una cosa: nel frattempo ci ascoltiamo la nostra scheda sulle nuove attitudini al risparmio delle famiglie italiane. La crisi economica ha reso difficile per molti gestire la quarta settimana del mese e ha visto sempre più spesso le famiglie obbligate a intaccare i risparmi accantonati con fatica negli anni passati. Insomma, la necessità di liquidità supera le entrate in arrivo dallo stipendio. Una tendenza molto netta, come evidenziano alcune rilevazioni di Banca Italia, che mostrano come la propensione al risparmio rispetto al reddito nazionale sia passata dal 29% degli anni 90 al 18% circa del 2010. Un trend in cui gli italiani, da sempre considerati come un popolo di formichine, non si sarebbero rispecchiati fino a poco tempo fa, e che è solo uno degli aspetti di una profonda trasformazione della gestione del risparmio nel nostro paese. La preoccupazione e la prudenza la fanno da padrone e spesso si trasformano in una vera e propria forma di paura per il futuro. La paura di non riuscire a risparmiare, la paura per gli andamenti imprevedibili di un mercato a cui una volta ci si affidava con più serenità. Timori che però possono in alcuni casi rivelarsi anche cattivi consiglieri e distogliere dalle scelte migliori per il proprio patrimonio. La voglia di sicurezza resta al primo posto e per conservare il proprio gruzzolo gli italiani sembrano preferire, se non direttamente il materasso, perlomeno quegli strumenti considerati come porti sicuri. Qualche guizzo di rischio però si vede ancora e anzi ha registrato una leggera crescita nella richiesta di azioni in borsa proprio nel terzo trimestre 2011. Teoricamente uno dei più neri per il nostro mercato, e l'anno scorso è aumentata dal 21 al 24% rispetto al 2010 la percentuale di chi investe una piccola parte del proprio risparmio piuttosto che tenerla sul conto corrente. Pietro Poletto, prima di commentare la nostra scheda i temi che volevamo appunto affrontare questa mattina, andiamo subito a Roma, dove, come vi anticipavo prima, viene presentato il nuovo BTP Italia. Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario per Borsa Italiana, ancora buongiorno. Allora, quando si parte, Poletto, e che cos'è questo BTP Italia? Buongiorno a tutti, abbiamo appena concluso la conferenza stampa al Ministero del Tesoro a Roma. BTP Italia, il nuovo prodotto retail, titolo di Stato retail

visto una scelta del genere. Salvadanaio torna su uno dei suoi temi più cari, il tema del risparmio, alla luce di un rapporto pubblicato oggi dal Sole 24 Ore su risparmio e investimenti, un rapporto che analizza le recenti tendenze delle scelte delle famiglie italiane che, come sapete bene, sono state sicuramente all'insegna della prudenza, ma a volte anche della paura, del timore di dover fare sacrifici troppo grandi. In molte famiglie si è perso il posto di lavoro, quindi immaginate come si possa essere risparmiato in questi contesti. Chi invece magari non ha avuto un cambiamento della situazione economica e reddituale si è comunque spaventato lo stesso alla luce di quello che ha visto intorno, per cui magari ha tirato un po' i remi in barca, ha scelto prodotti di investimento remunerativi ma sicuri come i conti di deposito, e ci siamo spaventati anche per l'andamento, come sapete, dei titoli di Stato italiani, che sono stati al centro di una grande crisi lo scorso autunno. Adesso forse siamo un po' alla fine di questo tunnel, ma chi l'ha detto? Dobbiamo vedere anche come evolverà la situazione greca. Detto questo, stamattina ne stiamo parlando con collega del Sole 24 Ore Vittorio Carlini e il professor Paolo Legrenzi, ordinario di psicologia cognitiva all'Università di Venezia, uno dei massimi esperti italiani di finanza comportamentale, che ci diceva uno dei temi che abbiamo approfondito di più negli ultimi tempi alla luce della crisi è stato il tema della diversificazione del risparmio. Le famiglie italiane non hanno fatto delle scelte appropriate. Allora, professor Legrenzi, per continuare questo suo ragionamento, le faccio sentire cosa è successo a Carlo da Milano, così riprendiamo le fila appunto proprio di quel tema. Carlo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, sempre sulla diversificazione, mi è stato sempre detto diversifica, che poi se perdi da una parte magari guadagni da quell'altra. Allora, azioni, obbligazioni e fondi, ce li ho tutti. Le azioni non ne parlo, perché se vado a fare i conti sono il 50% proprio perso. Le obbligazioni, che dovrebbero essere tranquille e sicure, allora, Generali, Enel, Banca Popolare di Milano, Mediobanca, investiti 180.000 euro, se io li vendo oggi sono 145.000 euro che prendo, per cui già lì seccato. I fondi che dovrebbero essere tranquilli, eccetera eccetera, il salvadanaio 200 euro al mese, 5 anni fa 200 euro al mese, sono a oggi 12.000 euro versati. Carlo, finito. Mi scusi una cosa, ma sì, le obbligazioni, per esempio societarie, che lei ha citato, sì, ha detto se le vendessi adesso ci perderei almeno 40.000 euro, se le porta a scadenza invece? Le porto a scadenza, perché fortunatamente... No, perché magari quel prodotto lì nasce con questo obiettivo... Però sto dicendo, a questo punto voglio dire, siamo lì, insomma, se mi capitano qualcosa io li devo, certo, vendere in certamente. Il fondo, che è quello che mi scoccia veramente di più, mi hanno detto, fai il fondo con il PAC, 200 euro al mese, formichina, bla bla bla, versati 12.000 euro, oggi sono 11.000 euro, per cui neanche in 5 anni, neanche col fondo sono riuscito. Io a questo punto dico, non mi resta che piangere. Ora, oggi io ho sul conto corrente diversi soldini, però devo dire la verità, non so più che cosa fare, ho paura a muovermi, li lascio lì, non prendo una lira perché non mi danno una lira, perlomeno sono sicuro che non perdo niente, sono sempre lì, tutto lì il discorso. Grazie. Carlo, grazie molte per la sua testimonianza accurata, che peraltro ha scomodato anche uno dei film più divertenti degli ultimi 30 anni, secondo me Non ci resta che piangere, con Benigni e Troisi. Professor Legrenzi, e allora come convinciamo un risparmiatore che deve diversificare al meglio, non mettere tutte le uova in un paniere? Questa regola ormai li abbiamo tormentati per anni con questo suggerimento, ma come si fa ancora a convincerli che è la regola più corretta appunto per gestire il risparmio? Intanto, per convincerli bisognerebbe spiegare che è un po' più complicato dell'uovo nello stesso paniere. Non è che il contadino che va al mercato e divide le uova in due panieri in maniera tale che se si inciampa e casca il paniere ne spacca solo la metà sia l'analogia corretta per capire la diversificazione, perché il punto cruciale nella diversificazione è venuto molto fuori molto bene dall'intervista testé avuta del nostro povero interlocutore, è che in realtà non è sufficiente di avere i vari panieri, bisogna che una cosa, quando la diversificazione è tale, se i vari panieri, per usare la metafora contadina delle uova, non sono correlati. Cosa vuol dire in pratica? Non succede quello che è successo in interlocutore, dove tutto è sceso, di più e di meno, ma contemporaneamente. Lui ha detto, da 5 anni ho fatto queste scelte e credo di essere diversificato, e ci ha spiegato perché, e invece sono scese tutte. Da un punto di vista tecnico, lui non è diversificato, per esempio non è diversificato sulle valute, si è fatto insomma sarebbe lungo raccontare, però lui tecnicamente diversificato. Professor Legrenzi, però no, lei ha fatto un ragionamento assolutamente corretto, poi io continuo ad interromperla, ma anche la diversificazione molto molto forte è anche un po' costosa per un piccolo risparmiatore, perché magari non tutti si possono permettere di avere un portafoglio di investimento così spezzettato. In ogni caso ogni rapporto con un intermediario finanziario diverso comunque ha un costo, bisogna fare delle scelte coerenti anche da quel punto di vista, non trova? Sì, però no, da per esempio l'intervistato di poc'anzi, dai vari racconti suppongo che può avere i suoi risparmi siano 100.000 euro, anche, si può diversificare anche con 90.000 euro, anche 40.000 euro, non è l'entità totale del portafoglio che implica, i costi ormai sono tutti uguali, in banca che lei compri una tripla A in dollari australiani o che compra un'obbligazione che ha comprato lui, che gli ha venduto probabilmente la stessa banca che l'ha emesse, altro errore, gli italiani hanno 4 volte il resto dei paesi europei in portafoglio obbligazioni emesse dalla banca di cui sono clienti, anche questo è un errore comprensibile da un punto di vista finanziario comportamentale, perché uno quando va alla Volkswagen compra la Volkswagen, quando va da Benetton compra la Benetton. Sulla base di questa strategia. Ah, professor Legrenzi è caduto, infatti stamattina era in viaggio e lo abbiamo voluto lo stesso nella nostra trasmissione con noi, però insomma ci ha offerto un assist molto interessante Vittorio Carlini per poter proseguire la nostra considerazione sul tema, il tema della decorrelazione. Fino a qualche anno fa ci dicevano, insomma, se tu investi sul mercato azionario e ti sottoponi a quel tipo di rischio magari puoi ammortizzarlo attraverso un investimento concomitante parallelo con uno strumento remunerativo e più sicuro come poteva essere il titolo di Stato. Fino a qualche anno fa questa regola valeva perché sono stati sempre considerati teoricamente due mercati decorrelati. Adesso invece abbiamo visto che questa crisi ha messo tutto sullo stesso piano, tutti i mercati sono andati nella stessa direzione che è stata quella verso il basso. Allora io piglio un po' le difese del povero Carlo che in qualche modo ci ha parlato prima. Ciò che diceva il professore è assolutamente giusto dal punto di vista teorico, un po' dei dubbi visto anche quello che abbiamo sempre seguito sui costi, perché in realtà è invece assolutamente vero che per fare attività e tipologie di investimento diversificato ci sono le commissioni costano e sul patrimonio che non siano anche di 50-100.000 euro comunque incidono. Il problema è che a dirlo sembra facile, ma è molto difficile trovare in questo periodo degli asset che siano veramente decorrelati. Perché facciamo un esempio: fino a qualche tempo fa c'era la famosa correlazione inversa tra lo spread famoso BTP Bund e Borsa Italiana. Se lo spread BTP Bund saliva, visto che c'era paura evidentemente sui titoli di Stato che sono in pancia alle banche che sono molto presenti nel FTSE MIB italiano, di conseguenza andavano giù le banche e andavano giù anche il FTSE MIB. Poi c'è stato un periodo in cui negli ultimi diciamo 2 mesi c'è stata meno pressione sullo spread e questa correlazione inversa in qualche modo si è un po' persa, quindi uno comincia a dire beh guarda, allora non è più vero forse che questa correlazione inversa sussiste, quindi non mi copro magari con il future sul Bund e mi compro i titoli di Stato, mi compro le banche e posso farlo. In realtà adesso di nuovo oggi ci risiamo. Perché questo? Perché in questo momento ci sono varie motivazioni, ma una delle grandi motivazioni è che in questo momento a dettare la linea è la liquidità, cioè i mercati si stanno muovendo, essenzialmente hanno fatto anche questo rally, grazie a quella manovra, secondo me assolutamente intelligente, perché ha tolto pressione a livello diciamo di breve periodo, abbiamo comprato del tempo in questo senso, fatta dalla BCE con le due maxi aste, una a dicembre e una a fine febbraio precedente, ma è quello che sta indirizzando diciamo il tema dei mercati azionari soprattutto e anche poi dei titoli di Stato. Non ci sono grandissime definizioni di trend dal punto di vista dei fondamentali. Ieri infatti per un attimo ci siamo stupiti che dopo l'indicazione che la Cina abbassava la stima di crescita al 7,5%, ad un modestissimo 7,5%, però non ironizziamo, perché per perché per loro abbassare al 7-5% cioè, è come per noi due cifre, ovvio, certo. andare quasi, non dico in recessione, però è molto importante quel segnale, perché quello è un segnale molto forte e invece che secondo me deve essere monitorato con attenzione. Per un attimo la borsa si è mossa un po' in questa situazione come dire di trend laterale, di incertezza, e quindi si è fatto un po' indirizzare da cosiddette fondamentali, che sì, ogni tanto fanno capolino, ma ultimamente è la liquidità, e la liquidità cerca remunerazione. Allora, se c'è una finanziarizzazione degli asset, è ovvio che questa decorrelazione o questa diversificazione diventa difficile. Un tempo l'oro, classico bene rifugio, si pensava di acquistarlo, saliva e magari i mercati azionari scendono. Non è più così, perché anche lì c'è un discorso di finanziarizzazione molto spinto. Sì, guarda, ti fermo perché c'è Furio da Milano che ha la sua teoria sull'oro. Furio, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie dell'ospitalità. Grazie a lei. Ecco, io ho dovuto vendere un appartamento perché oramai sembra che in Italia essere proprietari di immobili sia una grande colpa. Si è diventato un lusso, Furio. E è una grande colpa perché in effetti si è penalizzato. Ho dovuto vendere e poi a questo punto avevo una certa quota in banca. Ma cosa faccio? Come il signor Carlo che lo vuole tenere in banca? Dice che è sicuro, ma neanche per idea. Se per caso fanno un prelievo coatto come è stato fatto qualche tempo fa, ahimè. Diciamo che quelle mini patrimoniali, insomma, non è stato proprio coatto nei termini più esasperati del termine, però insomma lì. E quindi, Furio? Farsi portare via dei soldi sul proprio conto. Ecco, quindi cosa ha fatto? Ci dica. E quindi io ho incominciato a investire in oro, ovviamente comprando l'oro, prima una sterlina d'oro, la famosa sterlina di Elisabetta II. Sì, è una moneta, ma anche Re Giorgio, diciamo. Ah, beh. Dal 1900 tutti. Fino a ora ce n'è di diverse, sono quattro coni mi sembra. I marenghi? No, assolutamente, prendo solo sterlina perché sennò diventa troppo dispersivo. Io mi sono specializzato anche nel controllo delle monete perché purtroppo, ahimè, ci sono anche molti falsi in giro. E certo. Non con l'oro cinese come si suol dire, però per esempio il titolo dell'oro di una moneta sterlina e di 22 carati. Furio, abbiamo capito la sua scelta, le chiedo, ma tutto lì ha messo? No, non ancora, perché è difficile trovarlo. Ah, è difficile trovarlo a un buon prezzo, perché indubbiamente se uno compra al prezzo che viene fornito dalle banche o comunque sia dai rivenditori, ci fanno su un margine che non è assolutamente accettabile. Beh sì, anche lì bisogna fare attenzione, cercare l'intermediario appunto che operi con estrema professionalità. Furio, io la ringrazio per la sua testimonianza, dobbiamo andare ai suggerimenti per chi è in viaggio. Io che mi ero illusa che avesse comprato dei gran gioielli per la sua consorte, vabbè, mi sono sbagliata. Cosa ti suggerisce Vittorio Carlini la scelta di investimento fatta dal nostro ascoltatore? Allora, io prendo spunto anche questa indicazione che arriva da questa persona che ha parlato dell'oro, poi in realtà ne ha parlato con riferimento a una particolare tipologia di investimento, cioè quindi non comprare le, non so, le ETF in oro eccetera, ma andare sulle monete che poi hanno anche un valore numismatico e via di conseguenza. Che è questa? In fin dei conti, quello che lui ci ha detto è la difficoltà di trovare l'intermediario, la difficoltà, ed è questo un aspetto fondamentale, cioè l'investimento, e questo è venuto fuori anche da questo articolo che ho scritto su questo rapporto, non può essere una cosa così facile come una sorta di puntata al casinò, come invece in realtà guardando un po' i flussi finanziari delle famiglie ogni tanto rimane, perché andare a investire nel momento peggiore in cui le borse crollavano nel terzo trimestre ha un po' il sapore di dire sì, o scommetto che la so più degli altri e quindi come dire, la so più lunga, oppure un po' una sorta di, vabbè, mi gioco una sorta di biglietto alla lotteria. E invece non è così. Lo ricollego al discorso della fatica e della competenza, cioè uno deve mettersi in testa che investire non è una cosa così semplice, soprattutto ormai come i mercati sono sviluppati, non è più come 10-15 anni fa, anche il famoso cassettista, eccetera. E non è certo. Più così, uno deve avere competenze, quindi sull'oro per esempio, il signore io gli auguro veramente che abbia trovato la persona giusta, con i prezzi giusti, eccetera. Però, per esempio, investire in quel tipologia di investimento lì è molto difficile, certo, è molto complesso, perché sono anche mercati poco liquidi, c'è uno spread tra il valore denaro, il valore lettera, cioè il valore di acquisto, eventualmente di vendita, che è molto elevato. Bisogna fare attenzione, infatti, l'ultima cosa, che non tutti, per esempio, i famosi compra oro, eccetera, hanno quelle autorizzazioni della Banca d'Italia per poter operare in maniera corretta. Quindi bisogna fare molta attenzione. Quelli sono mercati che bisogna conoscerli approfonditamente, e quindi anche lì stiamo attenti. Il messaggio è finale. Il discorso della correlazione è difficile, il discorso di investire in moneta è difficile. Uno dice, ah, cavolo, allora cosa investo? Certo, è il mondo della finanza, è complesso, questo l'abbiamo detto tante volte. Non è che uno dice, vabbè, diversifichiamo e basta. No, bisogna avere competenze, bisogna conoscere, bisogna faticare, bisogna studiare. Lo so, è che quando parliamo di denaro abbiamo sempre molto pudore, naturalmente è anche corretto che sia così, ma spesso siamo portati ad affidare totalmente il nostro risparmio, come tanti altri aspetti della nostra vita, l'esperto di turno, perché noi diciamo tanto io non ci capisco niente, da te mi aspetto questo risultato, e quindi magari per un anno non ci facciamo più sentire con il consulente, se questo, o con l'intermediario di banca, con l'impiegato, appunto, e poi chiediamo conto chiaramente dei risultati. Invece forse andrebbe fatto un monitoraggio un po' più costante delle scelte che si fanno. Il consulente è il consulente secondo me è importantissimo. Bisogna, come dici tu, che sia monitorato, bisogna seguire, certo, e bisogna farsi una propria competenza per capire dove questo consulente ti sta portando, perché non nascondiamoci dietro un dito di stupidaggini, per non dire anche di cose in conflitto di interesse. Io ne ho viste nel mio mestiere, nel mio lavoro, tantissime. Allora, ci lanciamo questa provocazione per analizzarla magari, Vittorio, in un'altra trasmissione. Professor Lengrenzi, torno da lei. Perché lei sostiene nel suo articolo di questa mattina che la paura può essere un'ottima consigliera, perché è anche il miglior segnale di opportunità? Come fa a associare il tema della paura al tema della scelta di investimento, che in realtà dovrebbe essere fatta nelle condizioni di maggior serenità possibile? Volevo indicare che, a differenza di altri sentimenti che sono negativi sia quando uno possiede beni materiali e sia possiede, voglio dire, beni affettivi, mai bisogna avere avidità, possessività e così via, volevo sottolineare che invece la paura, sentimento sanissimo nella vita, perché evita che incorriamo in grossi guai, la paura ci salva dai guai ed è il motivo per cui la nostra specie e altre specie animali sono dotate della paura. Nel caso degli investimenti, purtroppo, come nella diversificazione su cui sottoscrivo in pieno quanto detto prima, nel caso degli investimenti funziona come segnale di opportunità, cioè in certo qual modo, in parole povere, funziona a rovescio. Quando le persone hanno tantissima paura, adesso non dico come si misura la paura, si può misurarla sulla base del timore che tutto vada male. Poi abbiamo sentito in intervista il signore che ha venduto la casa. Nel momento in cui le persone hanno il massimo pessimismo, in genere, se guardi i mercati azionari, sono i momenti rispetto ai quali, a distanza di tempo, i mercati salgono, perché sono quei momenti in cui i mercati sono a saldo. Vede, la paura è collegata al fatto curioso che nei mercati finanziari succede il contrario di tutte le altre merci. Quando c'è una svendita, adesso sono le svendite per esempio a Venezia dell'alta moda e così via, quando c'è la svendita gli abiti costano di meno. Ecco, e allora la gente si precipita a comprarli. Invece sui mercati finanziari la gente si precipita a comprare azioni quando queste sono carissime. Esempio dell'oro. L'oro è al prezzo più caro degli ultimi 20 anni. Quel signore sta convertendo lentamente la sua casa in oro, a parte tutti i problemi già sollevati sul cui non ritorno, però passa da un investimento molto poco diversificato, questo è un altro grande problema soprattutto delle persone più anziane, che hanno i loro investimenti per l'80-90% solo nell'immobiliare, cioè nella loro casa. È una riflessione che nasce dalla lettura a fondo del rapporto del Sole di oggi. Mettendo insieme vari pezzi, lei scopre che in realtà soprattutto le persone più anziane hanno i loro risparmi tutti nell'immobile. Siccome non riescono più a risparmiare ed erodono i loro risparmi non immobiliari, fa sì che avranno sempre di più, il 90%, al limite quasi tutto nell'immobiliare. Allora anche questo le mostra la difficoltà di capire il concetto di diversificazione. L'altro concetto cardine come stato d'animo è la paura. La paura funziona male, è una pessima consigliera. Mm-hmm. Perché proprio per paura uno scarta tutte le alternative e si rifugia nell'oro, proprio per paura uno vende le azioni quando valgono molto poco. Lo so, ma d'altronde è difficile insegnare questo. Non spaventarsi con quello che abbiamo visto negli ultimi tempi. Certo. Vittorio Carlini, ti assegno la conclusione a cui devi dedicare non più di 30 secondi perché siamo in chiusura, anzi 25. Al volo, professore, lei ha perfettamente ragione, però io mi ricorderò sempre un importantissimo quante di un importantissimo fondo che mi ha detto: io ho evitato le perdite quando c'è stato il 2007 col crack Lehman Brothers subprime, perché guardavo i CDS che erano basate le stelle e che c'era, e ho seguito il mio istinto di paura. Cosa voglio dire? Lei era perfettamente ragione, però il problema è che quando poi questa paura invece è un segnale di un vero salto che poi in realtà si sta effettuando, beh, allora lì bisogna stare attenti a dire che la paura, certo, sia un indicatore, beh, così sai, negativo. Bisogna vedere anche il professionista del risparmio e dell'investimento che tipo di intuito ha, che sicuramente è diverso rispetto a quello di un padre di famiglia che invece ha paura per il suo nucleo familiare, quindi sai, sono anche aspetti molto diversi. Comunque è tutto molto interessante quello che ci siamo detti questa mattina, non abbiamo sicuramente completato il discorso. Vi invito a prendervi Risparmio e Investimenti oggi con il Sole 24 Ore, insieme all'altra iniziativa editoriale Oggi in Edicola con il Sole, che è il libro dei fatti, l'anno che ha cambiato la vita degli italiani. Grazie a Vittorio Carlini e a Paolo Legrenzi, buona Grazie giornata a, voi. A tutti.